Orlando Furioso 500 anni. Cosa vedeva Ariosto quando chiudeva gli occhi? I capolavori dei maestri del Rinascimento al Palazzo dei Diamanti di Ferrara. A grande richiesta, prorogata al 29 gennaio. palazzodiamanti.it. Ad alta voce, Elisabetta Piccolomini legge Jane Eyre di Charlotte Bronte. Traduzione di Monica Pareschi. L'indomani mattina sentì il mio signore alzarsi prestissimo e vagare da una stanza all'altra. Non appena Mary fu scesa, lo sentì chiedere: «La signorina Eyre è qui?» Poi: «In quale stanza l'avete messa? Era asciutta, si è alzata. Andate a chiederle se ha necessità di qualcosa e quando scenderà». Quando pensai che la colazione fosse pronta, andai di sotto. Entrando in punta di piedi nella stanza, potei vederlo prima che si accorgesse della mia presenza. Era doloroso, davvero, assistere alla sottomissione di quello spirito fiero a un'infermità fisica. Era seduto sulla sua sedia, fermo, ma non tranquillo, in evidente attesa, con le rughe di una tristezza ormai abituale a segnare i suoi tratti forti. Quell'espressione ricordava una lampada smorzata che aspettava di essere riaccesa e, ahimè, egli non poteva da sé riattizzare il fuoco di un'espressione animata. Dipendeva da qualcun altro per farlo. Avevo inteso essere allegra e spensierata, ma l'impotenza di quell'uomo vigoroso mi stringeva il cuore. Tuttavia, mi accostai a lui con tutta la vivacità possibile. «È una bella mattina di sole, signore», dissi. «Ha smesso di piovere e tutto brilla dolcemente ora. Presto farete una passeggiata». Avevo destato la fiamma. Il suo viso era raggiante. «Sei davvero qui, mia allodola, vieni da me. Non sei andata via, non sei sparita. Ho sentito una delle tue sorelline che cantava un'ora fa, alta sul bosco, ma il suo canto non aveva alcuna melodia per me, non più di quanto il sole avesse raggi all'alba. Tutta la musica del mondo si concentra sulla lingua della mia Jane, al mio orecchio. Tutto il sole che riesco a sentire è nella sua presenza». Gli occhi mi si riempirono di lacrime nel sentirgli così confessare la sua dipendenza, come se un'aquila reale incatenata a un trespolo fosse costretta a supplicare un passero di procurarle il cibo. Ma non mi sarei abbandonata al pianto. Mi sbarazzai di quelle gocce salate e mi diedi da fare a preparare la colazione. Trascorremmo fuori buona parte della mattinata. Dal bosco umido e selvatico lo condussi in un paesaggio più lieto di campi. Gli descrissi il loro verde brillante, i fiori, i cespugli ravvivati, l'azzurro abbagliante del cielo. Cercai per lui un posticino appartato e grazioso dove sedersi, un ceppo d'albero asciutto, e quando si fu seduto lasciai che mi tenesse sulle sue ginocchia. Perché rifiutare, se entrambi eravamo più felici quando stavamo vicini anziché separati? Pilot era accucciato accanto a noi. Tutto era tranquillo. D'improvviso, stringendomi forte tra le braccia, proruppe: «Crudele, sei stata crudele ad abbandonarmi. Jane, sapessi cosa ho provato quando ho scoperto che eri fuggita da Thornfield e non ti trovavo da nessuna parte. E frugando nella tua stanza mi sono accorto che non avevi portato con te denaro né altro che potesse esserti parimenti utile. Una collana di perle che ti avevo regalato era nel suo astuccio, intatta. Che avrebbe fatto il mio tesoro, mi chiedevo, priva di tutto e senza un soldo, e che cosa ha fatto? Avanti, ora raccontami». A quella esortazione cominciai il racconto delle mie vicende di quell'anno appena trascorso. Alleggerì parecchio la storia dei 3 giorni passati a vagare in preda alla fame, poiché dirgli tutto sarebbe stato infliggergli un dolore inutile. Bastò il poco che dissi a lacerare più di quanto avrei voluto il suo cuore fedele. «Non avrei dovuto lasciarlo così», disse, «senza alcun mezzo di sostentamento. Avrei dovuto riferirgli le mie intenzioni. Avrei dovuto fidarmi di lui. Non mi avrebbe mai costretto a essere la sua amante». Per quanto violento fosse sembrato nella sua disperazione, in verità aveva per me un amore e una tenerezza troppo grandi per trasformarsi in un tiranno. Mi avrebbe dato metà della sua fortuna senza chiedere in cambio neppure un bacio, piuttosto che lasciarmi andare sola senza un amico nel vasto mondo. Avevo patito, ne era certo, più di quanto gli avessi confessato. «Ebbene, qualunque cosa io abbia sofferto è passato in fretta», risposi. Quindi cominciai a raccontargli di come ero stata accolta a Moor, come ero diventata la maestra del paese e così via. Di seguito vennero l'acquisizione del patrimonio e la scoperta delle mie parentele. Naturalmente nel racconto il nome di John Rivers ricorse più volte. Quando ebbi concluso, quel nome fu ripreso immediatamente. «Sicché questo John è tuo cugino?» «Sì, lo hai nominato spesso, ti piace?» Era un'ottima persona, non poteva non piacermi. Un'ottima persona, vuoi dire un cinquantenne rispettabile e ben educato o cos'altro? John aveva solo 29 anni, signore. Jeune encore, come dicono i francesi. È un bassetto flemmatico e insignificante? Un tipo la cui bontà consiste più nell'innocenza dal vizio che nella forza della virtù? È un uomo infaticabile, vive per compiere opere grandi ed esaltanti. Ma il cervello? Probabilmente sarà un po' baccato. Ha buone intenzioni, ma quando lo senti parlare scrolli le spalle. Parla poco, signore. Quando lo fa è sempre a proposito. Ha un cervello con i fiocchi, non emotivo, direi, ma vigoroso. Dunque è un uomo capace. Veramente capace. Un uomo di vasta cultura? John è uno studioso di cultura vasta e profonda. Ma hai detto che i suoi modi non sono di tuo gusto. Moralistici e preteschi? Non ho mai parlato dei suoi modi, ma sempre che il mio gusto non sia pessimo, devo dire che i suoi modi mi piacciono. Sono distinti, calmi, davvero gentiluomo. Ah, il suo aspetto, ho dimenticato, come lo hai descritto, una sorta di rustico curato mezzo strozzato dal collarino bianco in equilibrio sui trampoli dei tacchi rialzati, eh? John veste bene, è un bell'uomo, alto, biondo, occhi azzurri, profilo greco. Tra sé, accidenti a lui e a me. Ti piaceva, Jane? Sì, signor Rochester, mi piaceva. Ma questo me l'avete già chiesto. Naturalmente capivo benissimo a cosa tendesse il mio interlocutore. Era caduto preda della gelosia che l'aveva punto, ma era una puntura salutare. Gli dava sollievo dalla malinconia che lo rodeva, dunque non avrei incantato subito il serpente. «Forse preferireste non sedere più sulle mie ginocchia, signorina Eyre», fu il successivo inatteso commento. «Perché no, signor Rochester?» «Il quadro che avete appena dipinto fa pensare a un contrasto fin troppo stridente. Le vostre parole hanno descritto un Apollo bello e leggiadro. Così egli è nella vostra immaginazione, alto, biondo, occhi azzurri, profilo greco. I vostri occhi ora si posano invece su un vulcano, un vero maniscalco, bruno, squadrato e per giunta cieco e storpio. Non ci avevo mai pensato, ma voi... davvero siete una specie di vulcano, signore. Bene, potete lasciarmi, signora, ma prima di andarvene...» E mi trattenne con una presa più salda che mai. «Gradirete rispondere a un paio di domande?» Fece una pausa. «Quali domande, signor Rochester?» «Già John ti ha nominato maestra a Morton prima di sapere che eravate cugini? Sì. Lo vedevi spesso? Veniva a trovarti a scuola? Ogni giorno. Approvava i tuoi programmi, Jane, erano ottimi, lo so, visto che sei piena di talento. Li approvava, sì. Ha scoperto in te cose che non si aspettava di trovare. Questo non lo so. Dici che avevi una casetta accanto alla scuola. È mai venuto a trovarti lì? Di quando in quando. Di sera? Un paio di volte. Pausa. Per quanto tempo hai abitato con lui e le sue sorelle dopo aver scoperto la parentela? 5 mesi. River passava molto tempo con le donne della sua famiglia? Sì. Il salottino era il suo studio, ma anche il nostro. Lui sedeva accanto alla finestra e noi al tavolo. Studiava molto? Moltissimo. Che cosa? L'indostano. E tu intanto che cosa facevi? I primi tempi imparavo il tedesco. Te lo insegnava lui? Lui non sapeva il tedesco. Ma non ti ha insegnato niente? Un poco di indostano. Perché? A che cosa poteva servirti l'indostano? Voleva che andassi in India con lui. Ah, ecco che si arriva al nocciolo della questione. Voleva che lo sposassi. Mi ha chiesto di sposarlo. Non è vero, è una sfacciata invenzione per contrariarmi. Vi chiedo perdono, ma è la verità pura e semplice. Me l'ha chiesto più di una volta con la massima energia e convinzione. Signorina Eyre, ve lo dico ancora una volta, potete lasciarmi. Quante volte devo ripetere la stessa cosa? Perché restate ostinatamente appollaiata sul mio ginocchio quando vi ho pregato di andarvene? Perché sto bene qui. No, Jane, non stai bene qui, perché il tuo cuore non è con me. È con quel cugino, quel John. Fino a questo momento ho pensato che la mia piccola Jane fosse tutta mia. Ero convinto che mi amasse anche quando mi aveva lasciato. Era un granello di dolcezza in mezzo a tanto amaro. Per tutto il tempo che siamo stati lontani, con tutte le lacrime brucianti che ho versato per la nostra separazione, non ho mai pensato che lei, mentre la piangevo, amasse un altro. Ma è inutile tormentarsi, Jane, lasciami. Va a sposare Rivers. Scacciatemi pure allora, signore. Respingetemi, perché di mia volontà io non vi lascerò. Jane, quanto mi piace il tuo tono. Rinnova ancora la speranza, suona così sincero. Quando lo sento mi riporta indietro di un anno. Dimentico che ti sei formata un nuovo legame, ma non sono uno sciocco. Va. Dove devo andare, signore? Per la tua strada, con il marito che hai scelto. Chi sarebbe? Lo sai, questo John Rivers. Lui non è mio marito, né lo sarà mai. Non mi ama e io non amo lui. Ama, tanto quanto può amare, non nel modo in cui voi amate. Una bellissima fanciulla di nome Rosamond. Voleva sposarmi solo perché pensava che sarei andata bene come moglie di un missionario mentre lei non era adatta. È buono, è un grand'uomo, ma severo, freddo come un iceberg per me. Non è come voi, signore. Non sono felice al suo fianco, né accanto a lui, né con lui. Per me non ha nessuna indulgenza, nessun affetto. Non vede nulla di attraente in me, neppure la giovinezza. Solo qualche utile qualità dell'intelletto. Devo proprio lasciarvi per andare da lui? Involontariamente rabbrividii e d'istinto mi strinsi più forte al mio cieco ma adorato signore. Lui sorrise. Perché godi nel sacrificarti? Sacrificarmi? Ma che cosa sacrifico? La fame in cambio del cibo, l'attesa per l'appagamento. Avere il privilegio di stringere tra le braccia ciò che per me è prezioso, di riempire di baci ciò che amo, di trovar pace in ciò che mi dà fiducia. È questo sacrificarsi? In tal caso è vero. Godo nel sacrificarmi. E sopportare le mie infermità, Jane? Tollerare le mie mancanze? Che per me non esistono, signore. Vi amo di più, ora che posso esservi davvero utile, di quanto vi amassi nella vostra orgogliosa indipendenza, quando disdegnavate di fare altro che largire e proteggere. Finora ho odiato essere aiutato, essere guidato. D'ora in poi non lo odierò più, lo sento. Non mi piaceva dare la mano a una persona pagata per farlo, ma è piacevole sentirla stretta dalle piccole dita di Jane. All'assistenza costante dei domestici preferivo la completa solitudine. Ma la dolce, servizievole presenza di Jane sarà una gioia perpetua. Jane fa al caso mio e io faccio al suo, fin nella più intima fibra del mio essere, Signore. Stando così le cose, non c'è nulla al mondo da aspettare, dobbiamo sposarci subito. C'era impazienza nel suo viso e nelle sue parole. La sua vecchia natura impetuosa rialzava il capo. Dobbiamo senza indugio diventare una sola carne, Jane. Non resta che procurarsi la licenza, poi ci sposiamo. Signor Rochester, ho appena scoperto che il sole ha lasciato da un pezzo il mezzogiorno e Pilot se n'è andato a casa per mangiare. Fatemi vedere il vostro orologio. Mettilo alla cintura e tienilo tu d'ora in avanti, Janet. A me non serve. Sono quasi le 4 del pomeriggio, signore, non avete appetito? Fra 3 giorni dovrà celebrarsi il nostro matrimonio, Jane. Non pensare a bei vestiti e gioielli ora, sono cose che non valgono nulla. Il sole ha asciugato ogni goccia di pioggia, signore. Il vento è caduto. Fa molto caldo. Lo sai, Jane, che in questo momento la tua piccola collana di perle sta attorno al mio collo di bronzo, sotto il fazzoletto. La indosso dal giorno in cui persi il mio unico tesoro, come suo ricordo. Passeremo dal bosco per tornare a casa. È la strada più ombrosa. L'ho sposato, lettore mio. Il nostro è stato un matrimonio tranquillo. I soli presenti eravamo lui, io, il pastore e il chierico. Tornati dalla chiesa andai nella cucina dove Mary stava preparando la cena e John puliva i coltelli e dissi: «Mary, stamattina mi sono sposata con il signor Rochester». La governante e suo marito appartenevano a quel genere di persone rispettabili e imperturbabili a cui si poteva in qualsiasi momento annunciare una notizia sorprendente senza il rischio che vi perforassero i timpani con le loro esclamazioni e vi stordissero con fiumi di parole sbalordite. Certo, Mary alzò gli occhi e certo mi fissò. Il mestolo con cui girava un paio di polli che arrostivano al fuoco rimase sospeso a mezz'aria per 3 minuti buoni e per lo stesso intervallo di tempo anche John smise di lucidare i coltelli. Tuttavia Mary, tornando a chinarsi sull'arrosto, disse soltanto: «Davvero, signorina? Bene, bene, bene, molto bene». Poco dopo riprese: «Ho visto che uscivate col padrone, ma non sapevo che andavate in chiesa a sposarvi». E tornò i suoi polli. E John, quando mi volsi a guardarlo, aveva un sorriso che gli andava da un orecchio all'altro. «Io gliel'avevo detto a Mary», disse. «Sapevo cosa aveva in mente il signor Edward». John era un domestico di vecchia data e conosceva il suo padrone da quando era il figlio cadetto della casa, perciò spesso lo chiamava con il nome di battesimo. Ed ero sicuro che aveva una fretta del diavolo, e ha fatto bene, per bacco. Tanta felicità a voi, signorina. E si portò rispettosamente la mano alla fronte. Grazie, John. Il signor Rochester mi ha detto di dare questi a te e a Mary. Gli misi in mano un biglietto da 5 sterline e uscì dalla cucina senza aspettare di sentire altro. Qualche tempo dopo, passando davanti alla porta di quel sacro luogo, colsi queste parole: «Quella ragazza è meglio di qualunque gran dama per lui». E ancora: «Anche se non è una bellezza, ha sale in zucca e un ottimo carattere. Poi lui la trova bellissima, questo lo vede anche un cieco». La mia storia si avvia al termine. Ancora qualche parola sulla mia esperienza di vita coniugale. Oggi sono sposata da 10 anni. So cosa significa vivere interamente per colui che più amo al mondo. Vivere con lui. Mi ritengo molto fortunata. Una fortuna che la nostra lingua non è capace di esprimere, perché io sono la vita di mio marito, in tutto e per tutto, quanto lui è la mia vita. Nessuna donna è mai stata vicina più di me al suo compagno, carne della sua carne, sangue del suo sangue. La compagnia del mio Edward non mi stanca mai, né lui si stanca della mia più di quanto possano stancarci i battiti del cuore nei rispettivi petti. Di conseguenza, stiamo sempre insieme. Stare insieme per noi è essere a un tempo liberi come in solitudine e contenti come in compagnia. Parliamo tutto il giorno. Parlare tra noi è come animare il pensiero e renderlo udibile. A lui va tutta la mia fiducia e la sua è tutta per me. I nostri caratteri si combinano come meglio non potrebbero e il risultato è un accordo perfetto. Il signor Rochester restò cieco per i primi 2 anni della nostra unione. Forse fu questa circostanza ad avvicinarci tanto, a formare tra noi un legame così stretto, perché io ero la sua vista e sono ancora oggi la sua mano destra. Ero letteralmente la luce dei suoi occhi, come mi chiamava spesso. Attraverso di me vedeva la natura, vedeva i libri. E io non mi stancavo mai di osservare per conto suo e descrivere a parole un campo, un albero, una città, un fiume, una nuvola, un raggio di sole, il paesaggio davanti a noi, il tempo, ed imprimergli all'orecchio, col suono, ciò che la luce non poteva più fissare nei suoi occhi. Non mi sono mai stancata di leggere per lui, né di condurlo dove voleva andare, né di fare per lui ciò che desiderava fosse fatto. E nei miei servigi c'era un piacere completo e squisito, sebbene triste, perché quei servigi lui li chiedeva senza doloroso imbarazzo o avvilente umiliazione. Il suo amore per me era così sincero che non esitava mai ad approfittare della mia assistenza. Sentiva l'intensità del mio affetto e sapeva che per me assisterlo significava realizzare i miei desideri più dolci. Un mattino, trascorsi 2 anni, mentre mi stava dettando una lettera, si avvicinò, si chinò su di me dicendo: «Jane, hai qualcosa di luccicante al collo?» Avevo la catenina dell'orologio e risposi: «Sì, e indossi un abito azzurro?» Proprio così. Mi informò che da qualche tempo gli pareva che le tenebre che gli annebbiavano un occhio si fossero fatte meno fitte, e ormai ne era sicuro. Andammo insieme a Londra. Si fece visitare da un eminente oculista e infine recuperò la vista da quell'unico occhio. Non è tornato a vedere distintamente. Non riesce a leggere o a scrivere molto. Ma può trovare la strada senza bisogno di essere guidato per mano. Il cielo non è più uno spazio vuoto per lui, la terra non è più un deserto. Quando gli misero tra le braccia il suo primogenito, vide che il bambino aveva gli stessi suoi occhi di un tempo, grandi, brillanti e neri. In quell'occasione riconobbe nuovamente di tutto cuore che Dio aveva temperato il castigo con la misericordia.